piazza putrida vuota di te. Che voglio nado, riedo mille, si ti prostri al re. Piazza putrida vuota di te.